Container. L'approfondimento settimanale su autotrasporto e mobilità di Massimo De Donato. Chi trasporta i rifiuti sanitari prodotti dagli ospedali e chi consegna i moduli container della protezione civile durante le emergenze. Le pubbliche amministrazioni, come tutti, hanno bisogno di servizi di trasporto e logistica, ma diversamente dal settore privato, gli enti pubblici devono seguire particolari procedure di appalto e di assegnazione dei lavori. Consip, la società del Ministero dell'Economia e delle Finanze, finita da mesi in mezzo alle indagini della magistratura, si occupa anche dell'affidamento di questo tipo di servizi, oltre che di quelli di trasporto delle persone. I problemi oggettivi che sta vivendo avranno ripercussioni anche sui bandi e sulle imprese impiegate in queste attività? Salve a tutti, da Massimo De Donato, benvenuti a questo nuovo appuntamento con Container, l'approfondimento settimanale di Radio 24 dedicato al mondo dei trasporti e della logistica. Ed oggi ci occuperemo di un tema sicuramente un po' delicato, perché parleremo di bandi di gare, di appalti, parleremo di Consip e cercheremo di capire come questo complesso mondo va ad intersecare l'altrettanto complesso mondo dei trasporti. Faremo tutto questo in compagnia del nostro ospite, che è Massimo Stronati, presidente di Federlavoro e Servizi Conf Cooperative. Buon pomeriggio, grazie per essere con noi. Buon pomeriggio a tutti i radioascoltatori. Allora, cominciamo con lo spiegare che cos'è Federlavoro e Servizi all'interno di Conf Cooperative. Sì, è la federazione all'interno di Conf Cooperative che si occupa e assiste le cooperative di produzione e lavoro e logicamente servizi che vanno dal trasporto pubblico locale al trasporto merci, al facility management, la ristorazione, l'ambiente, l'energia. Sono tutte quelle attività che sono corollario del mondo delle imprese industriali, agroalimentari, tutto dove c'è produzione di beni e di servizi, logicamente. E all'interno di Federlavoro e Servizi è ricompresa anche la componente trasporto, ovviamente, di cui parleremo nello specifico oggi. Quando parliamo di pubbliche amministrazioni, parliamo di strutture che, come tutti, hanno bisogno di servizi di trasporto e di logistica, ma diversamente dal settore privato devono organizzarli in base a delle procedure di appalto. Ecco, ci sono delle importanti novità in questi ultimi mesi, ci sono delle trasformazioni, ma cerchiamo di capire un po' come funziona questo mondo. Ci sono tre grandi canali, che sono il MEPA, lo SDAPA e le grandi gare. Cominciamo proprio dalle grandi gare. In che cosa consistono? Allora, innanzitutto facciamo una piccola precisazione in premessa. Dall'anno scorso c'è il nuovo codice degli appalti. Questo nuovo codice degli appalti, che parliamo anche di codice degli appalti in derivazione delle normative comunitarie, appunto di ricepimento, che c'è anche un primo correttivo. Quindi le imprese già si trovano a che fare con un nuovo codice degli appalti. Nel frattempo ci sono delle novità, delle modalità di approccio. Non solo le grandi gare per macro lotti, ci sono anche, ormai da anni, c'è il MEPA, che è il mercato elettronico per l'acquisto della pubblica amministrazione per le gare sotto soglia, e di recente introduzione, sempre gestito da Consip, c'è lo SDAPA, che è il sistema dinamico acquisizione della pubblica amministrazione. Ecco, in che cosa consistono questi due sistemi? Grandi gare è abbastanza immaginabile con il funzionamento, ma MEPA e SDAPA, per chi non si occupa di pubblica amministrazione, in che cosa consistono? Allora, innanzitutto sono delle piattaforme di acquisto. Il MEPA, come dicevo prima, è per le gare sotto soglia, quindi fino alla soglia comunitaria riusciamo a far partecipare le aziende che si qualificano. Si qualificano, una volta che si qualificano mettono all'interno della piattaforma online i loro preventivi, i loro cataloghi di servizi e vengono scelti dalla pubblica amministrazione in base logicamente ai requisiti già a monte che hanno per la partecipazione al mondo delle gare. Quindi all'interno di questo grande catalogo poi la pubblica amministrazione sceglie i suoi fornitori. Esattamente sì, per categorie merceologiche. Certo. La stessa cosa in qualche modo è SDAPA. SDAPA è recente e è totalmente informatizzato anche questa procedura, e questa procedura ha una parte tecnica che è quella della relazione che si fa per i progetti di gara, solo che è informatizzata, e dall'altra c'è la parte economica. Questo è in collaudo, diciamo, anche le prime gare sono uscite da poco e in qualche maniera però all'interno di SDAPA si annida comunque il massimo ribasso. Come dire, a completare questo processo di trasformazione ci doveva essere una sostanziale riduzione delle stazioni appaltanti, che dovevano passare dalla circa 40.000 addirittura a 38 stazioni appaltanti, però tutto questo non è successo. Perché? La legge di stabilità del 2015 prevedeva appunto questo. Da 40.000 a 37, poi dall'anno scorso ne è stata abilitata un altro che è Invitalia, da ottobre dell'anno scorso, quindi 38 in teoria. Però è un processo lungo, non si può passare da 40.000 a 38 in un anno o in un anno e mezzo. Sono ridotte, è vero, si stanno riducendo, è vero, però c'è anche una difficoltà nel far partire bene queste centrali di acquisto, che siano a livello territoriale oppure far funzionare bene quella a livello nazionale. Certo, e qui veniamo ai problemi per questo settore. Quindi come tutta questa situazione si sta riverberando negativamente sul mondo delle cooperative e in generale sulle imprese che lavorano con la pubblica amministrazione? Allora, innanzitutto c'è un ragionamento che è molto importante relativamente al mercato. Allora, per stare in questo tipo di mercato bisogna esserci in maniera trasparente e legale. E questa è la premessa che poi dopo viene anche ripresa dai fatti di cronaca di questo periodo. Beh, li leggiamo tutti, insomma, anche nelle ultime ore la vicenda Consip tiene banco sui giornali, certo. È ora di dire basta, far politica con la Consip o addirittura di far cronaca con la Consip. Mi rendo conto che ci sono dei fatti eclatanti, però sono delle indagini e andranno avanti. Però il problema è che Consip occupa un ruolo chiave nell'economia del nostro paese, la centrale di acquisto nazionale. E quindi è tempo di rilanciarla. Lei pensi che il 15% del PIL è dato appunto dal public procurement, quindi dal mercato della pubblica amministrazione. Sia a livello centrale che a livello delle stazioni appaltanti periferiche deve funzionare, perché il comune, la pubblica amministrazione si deve convenzionare per avere i servizi. Che siano servizi per il trasporto, che siano servizi per il trasporto pubblico locale, per il facility management, per i servizi ospedalieri. E questo è un grande mercato e oggi in questa situazione Consip deve essere rilanciata anche nell'operatività, perché ci sono dei lotti, delle gare che sono ferme da tanto tempo. Quindi noi investiamo, perché è un paradosso non far funzionare un sistema così delineato, adesso a parte il numero dei lotti che francamente deve essere aumentato, perché non si deve creare dei recinti troppo ristretti e piccoli e di numero, perché devono partecipare tutti. Anche perché questo restringerebbe di molto il campo delle imprese che possono ovviamente partecipare. Esattamente, è importantissimo la suddivisione in lotti e che questi lotti possano essere accessibili, perché se no si crea un contenzioso tutto italiano, si fa praticamente un processo legale, un ricorso legale prima che esca la gara, perché se escono pochi lotti invece le aspettative sono tante. Certo. E poi si va avanti all'infinito. Adesso mi viene in mente ad esempio la gara per il TPL in Toscana, che è stato soggetto a questo tipo di problematica. La gara TPL Toscana è in evoluzione, speriamo bene per il mondo della cooperazione, delle imprese che noi rappresentiamo. Comunque la gara del TPL della Toscana o da un'altra parte, è pur vero che innanzitutto ci vuole la chiarezza delle regole, e questo dico che il codice degli appalti ci viene molto incontro se lo prendiamo bene. Certo, se lo prendiamo come un raffronto, come sempre qualcosa che dobbiamo aggiungere per aiutarci e aiutare le nostre imprese o le nostre organizzazioni, allora dobbiamo guardare un po' tutto in un'ottica molto ampia, con una mentalità elastica, perché dove c'è regolarità c'è progresso e sviluppo. Quindi, Presidente Stronati, abbiamo ancora pochi secondi. Qual è il messaggio che voi lanciate al mondo politico e a questo punto mi sembra di capire anche al mondo mediatico, perché mi sta dicendo non parliamo più soltanto dei problemi giudiziari di Consip, ma cerchiamo di fare in modo che cominci a funzionare. Allora, se noi parliamo che il 15% del PIL è dato da questo public procurement, le imprese o nostre o di altre organizzazioni di questi settori fanno piani industriali con questo mercato, quindi tutto deve funzionare, perché dietro ci sono imprese labor intensive, dove ci sono tante famiglie che lavorano su questi, appunto, su questi settori, quindi famiglie che si sfamano grazie a questi settori, quindi dobbiamo tener conto anche della